Trommi, trommi. Oh. Sì. Cinque minuti ce l'hai? Cosa? 5 minuti di tempo ce l'hai? Sta aspettando a uno che deve venire a ritirarsi uno di quelle storie là. Vabbè, per fare quella prova che stavamo dicendo, a ver qual è. Prova io. Allora, questo è uno. E allora, com'è, com'è? Questo è questo. Sicuro sia te? Sì. Questo. 1, 2, 3, prova. No, di meno. Riprova l'altro. Aspetta, l'altro. Allora, com'è l'accento? Questo è. Ok. Vabbè, no. Bene, mela. Ok. Bravo. Ok, you. Dimmi, chi è? Ciao, mani, via. Chiamano, si ritirano. Ellu. Andiamo bene. Certo che tra Guffo e Luca se ne dà di santa ragione, coloretto, la verità è. Però. E poi gribiazzi, coloretto, a te e due. Non è a tutti, Meglio così. Era male, non fe. Fa fuzzo, cucati ancora a te e due. Si salutano dalla balcone, dopo il magnato. Ciao, a me. Certo, meglio il passo al forno, c'è chi può. A te ce la hai una teglia, cara, di chi ti mangi se la mangi, se la mangi a tutta canta. Hai dato in bocca. Ok. Che dove era arrossendo, mi è consumendo tutto lo barbecue, mi è consumendo, guffo. Vai in te, ci sa. Sa, tizzone. Capo collo. Cazzo, bicecchi, cazzo, tu dai giù, insalata di fagiolino, poi non so che altro per, e da paesa, e da signora che sta così vende, boh? A te immaginati, ma io non ho compreso, tu si vanta, cazzo si fai vantare, si so confondi di chi, tu so confondi di un succo, so confondi di chi d'altro. E invece poi ci dà la verità, pensamente lo barbe con la fase così là, che vagogna. Già la dici già. Cazzo, ogni tanto anda e mi corriteggia, tu capito? E fai un pezzo di una cosa, un pezzo dell'altra, allora mangia, tu non mangia. Dici non mangio niente, per questo che c'ha di cos'è, ma anda ogni tanto e mangia, capito? E dopo dici così è già tutto. Aspetta un attimo, rispondo al telefono, giù. Così, magnata di la carriera, guffo. Non si vede ancora un fumo, scende, no, che guffo. Fuffo, dove la salsiccia? Permettersi. Tocca! Sulla griglia, anche così, come si chiama? Le pannucchie. Pannucchio! Non mi tossi! No, sto digerendo, ma di maniera da pulce tirato. Tirato pulce. Oh, tutto per mai nato. Una pannucchia ma giù russicchiata, buona eh? Viaggia russicchia e un'altra graviglia, yeah! Il gran turco, buon abito. Marmito sì. È vero, signore. E a lui, Luca mi ha mandato il travaglio che ha fatto. Verniciato, cubicato, là, una carabina, ma non mi piace a me, mangiando stai. Oh, noi picchia. Dimmi. Così si venne. Che non intenda io sono bacchiccio, a tutti impedire se lo chiappa, che è dove lo intendia, boh, strano, è strano veramente, boh. Cattano i giochi, allora mi sono cremato il TMR, ma il 27, fra il trattore, da poi sono passato all'altra parte, ho provato a poggiare l'antenna che Santino che fa giù fuori, e già l'intendia a Bacchiglio, chissà, ma quello commino non l'intendo a Bacchiglio, capito? Però era troppo freddo, cioè ho preferito rimanere il 27, capito? Era belli, non è entrato il 27, Bacchiglio, sì, non funzionava, o è dall'antenna, o chissà cosa è successo. Assegniamo a noi figlia, e noi intendiamo nemmeno. E allora la dobbiamo controllare, non so questo se la controllava, o ne è parata l'antenna. Ma ne è parata l'antenna, buonasera signore. Entra se vuoi entrare, là che non treno alla stazione. Ti hai buccato pure la rotta, tu vuoi giù. No, ma tu. C'è se vuoi che ho visto che hanno. Ha buccato la rotta, Luca. Era andato con un cerchione. Dumbo, dumbo. Vieni, la salvo, papà, non sa cosa fa. Ha rompito le balle. Oh, yeah. Ciao, Giomari, ciao, Tore. Avanti, Tore. Buonasera, grazie a voi. Sì, Tore, non è di saluti, pure è carica. E un elettrico, no. Io Maria e io ci siamo, e ah, se tu hai esenti magari riesci a farmi il dasso, se fammi di nato, ora brutore, poi giù in macchina, Tore, avanti. Macchina sono. Vedi che razza che c'è. L'hai coperto, se non lo dai il tempo, l'ho sentito, sono mica me lo invento. Se c'è la persona la chiamo, se non ce l'ho la chiamo. Comunque sicuramente non ti ascolta, no, Tore? Anche basta punizione dell'apparecchio, che fa con l'antenna di scuola? Non si sa che si mettere delle gomma, che fa? Giovanni, tu l'hai copiato? A chi? A Tore. Quando adesso lo sento, buonasera. Beh, si è preso proprio di un ente, Graziano. Boh, se si crede che il microfono deve essere in piedi. Non lascia un tempo in uso. Atta. Sempre che si dice, ma ho bisogno di appicciare il suo dito. Lo dico, domani, adesso è un secondo caso di bianco, in modo che se vuoi entrare qualcuno, che te lo intendiamo, se no come ti fai, se poi ti soppiamo di lei già, può far vedere sempre, tutto, va così. Arriva di posto, di 9-6, la sapete e parte. Pure la mano hai sbagliato, cattivo, era il trattore e tu, ma insomma, questa cosa no, tu hai sentito, se io rilancio a Tore o a Luca, hai sentito quando ti dici di fare grazia, e poi se no, se promuoveggi sempre, cattivo, boh, avanti tu. Cattivo, ho già messo fatto graziano. Sotto, cosa ti posso fare io, che non mi intendo a me. Vuoi fare da solo vedo, se non vedo, boh, non lo intendi, basta ponere l'antenna, come ci si deve, davvero, per cui, però, che c'è, non si deve lamentare, oh no, Luca. Vabbè, mica gli possiamo dare delle colpe, comunque, non lo sente lui. Però tu c'hai ragione, Giomari, rilanci a Tore, riprende lui, e poi dire lo intendi. vabbè, dai. Ma adesso sei lontano, dove sei Tore? Che zona sei? Ma non intendo più a Tore. Tore! Eia, che mi stavo spostando appena, per farmi sentire. Anche Luca gli ha rilanciato. Mi ha sentito bene già. Capito bene tu? Eia, già ho capito io, sì, ma purtroppo... Ciao, l'antennino, quello lì è così, anche se sopra la capote è piccolo, mannaggia altro. ma è graziale, ti sente, lui sente a tutti e sopravvive a tutti pure, diglielo bello bene. Non sento a nessuno, non lo sento, e queste volte anche io non risente più. Ma l'ha fatto sentire la faggio alle orecchie stamattina? Sì, la pulisce la penna come ci si vede, si è in macchina. E non l'antenna, ve la regalagliela tu. Luca, regalagliela tu. Ehi, posso regalare una colomba, se la... Me l'hai gratti? Oh, che tu hai un valese, oh, che vado a tenere all'accio. No, dipende tutto. Ma sai come ti è fatto Graziano, Gio Marino? Per carità, è una cosa incredibile, bisogna andare a pigliare il baribari, a pigliare un macete, a pigliare fino su di Dugat. Boh, ho quel remedio. Sì, la cupa la si la penna, sino che non arrivi. Tanto basta fa, Gio Maria, sai, è passato il tempo. Non sei contento, eh? Non sei contento. A chi sai che l'hai dato un video due a Edo me, a poni la musichetta? A chi voi ce l'hai bocciato puro? Prima bucata, vai, è su Ah, bucato, va. Hai intendi, gatto? Ma chi? Scusate. Ma chi sei? Tore! Ehi, a Gio Marino, dimmi. Graziano, va un po' di apparecchiatura, però non è buono, no? Non è buono, no? Per forza, anche a pensare già a vedere l'armadio, a chi l'ha dentro l'armadio, frisciata. Bobo, non lo so, quello, grazie, come chiamo? Pori la tenna, gatta, che alla macchina non intende a Tore. Oh, ma voi dite a chi non fa nessuno in frequenza, se la lamentete, chi non fa nessuno. Beh, forse, se attacchi la terra non intendi a nessuno, tu. E io, faccio un po', sai, tutto canto, era ciò che tu attendi. Ma va, faccio un attendino, mi lo reggio. Ma è trasferito in macchina. Capito, è bello bene, musichetta cagliato, non hai inteso attore? Non l'ho sentito, l'altro giorno l'ho sentito, bisogna vedere da un pezzo. Oh, a rimanere a Santi Giovanni l'intendia, oggi non l'intendi. Sento sempre un Matteo Rogo, mio marito, sono però l'altro giorno. È un po', catta, sei a bomboletta qua, catta, strano è. Ma te la dico oggi magari forse non ha pigliato il caffè, oggi, capito? E allora non ti intendi. Bene, vai, mi comprendi, tu. È rimasto il ranzo, che è rimasto oggi, fallisco, Mi ascolti a me, Tore? Abbastanza bene, anche se c'è appena appena di QRM, ma grazie a me proprio in mezzo al QRM, intendo. E poi se si porta più ad avanti a venire a parte di Sant'Iviani, forse mi sento di più. A me da avanti mi ha costruito, 1, 2, 3, prova. Avanti adesso si abbomba. Ma anche tu già stai arrivando bene, dai. Graziano che va a parecchio zorro. Graziano, lo squelch mettilo a 1, no a 8, a 1 vuole lo squelch. Non è lo squelch, qua, a squelch. L'impostazione devi andare e lo devi mettere a 1, se lo metti più alto non te lo apre lo squelch, capito? A 1 vuole. Allora va bene, dai, sta regolato loro, va bene. Poi qua ci arriva bene, Tore, dai. Arriva un po' flusciato, comunque già lo sento bene. Avanti, Gio Marino. Strano però, Perché rimane l'intendia a Tore, Edu Graziano. Oggi non l'intendi. a chi oggi fa il gommino, capito? E stare male, evidentemente va via l'astro, va via. Così è graziato. L'astro è graziato. Allora già mi comprendo a me, come stai ma a Bacchiccio, io Bacchiccio non lo intendo, col gommino non lo intendono, oh i gatta, a tutti intendo, no. E lui mi sente a me, però io già vuoi ti dica, purtroppo è una frequenza balorda, già vuoi fare, avanti e to. Otto, ma io ti sento sempre bene, io ti sento sempre bene, non è che ti abbia detto non ti senti, graziato che non ti intendi, a chi mi ha fatto il lavaggio alle orecchie stamattina? Cazzo, ma che fallo su chi su, boh, si passa la vagogna, io su che bruca è me, boh, ma come si passa la vagogna? Lu, poi tanto e c'ha più di uno. Otto, ma rimane a sera, cazzo, sei un team 27, chi ha giunto la bacchese non intendia, che sono rimasto a quel tempo io. Portante mira. Racconti so. Purino che vi sono ricalleggiante, cazzo. Vuol dire che cosa è giù non fino a tanto e allora fate chi sul travaglio. Chissà che al gusto di Biliani, siamo qua, ci facciamo due chiacchiere, un paio d'ore, manco qua si può rimanere, entra la baracchina lo stesso, non pongono le scatole, ma tu comprendimi. Hai gente strana, c'è troppa gente strana in giro, troppa. Ce l'ha con qualcuno, va, se entrare lo dice, scusa, stai lì a disturbare a tutti, bisogna prendere un cacchettino di voi, ma sicuro che vi piace con me, non è detto, ma basta di miro, si fa problemi, vabbè Giulio, ma dico, perché vanno a disturbare, non ho capito, poi la dici da Giappani, non lo so quanti rabunimo da voi, sono cazzi amari, scusando il termine, allora guarda, ti racconto la... una storia che è successa anni addietro, ma tanti anni fa, ti parlo di, vent'anni fa, forse anche di più, mio fratello, sotto casa mia, io ho l'antenna sul tetto, non riusciva a passare col baracchino, c'era una portante, non riusciva a passare nessuno, e poi, piano piano, l'hanno trovato, gli hanno buttato la porta di casa, che era al monte, tu conta, mio fratello, sotto casa, non riusciva a passare, c'erano le antenne attaccate, allucinante, chi sarà bumpendo i voti, non riusciva a passare, allucinante, una cosa, c'è proprio, mio baracchino l'ha muto completamente. Ma quindi erano lui e chi vi rimonte che faceva il cintravagli, uno era fisico a te e l'altro era dall'altra bassi, lui, che altro, io riconosci la soggia, e già risolvo un castone, due vinerani. Invece c'è l'altro che stava parlando sotto, sì, vabbè, comunque l'hanno trovato, gli hanno buttato giù la porta e a quanto ho capito gli hanno preso anche il tele radio, non tutte, però un po' di radio gli hanno portato via, e allora diamo l'attore questo qua, e io dico, prima o poi da Ciappani, mi puoi fare una voce, ti dico, la da Ciappani, e poi chi su proprio il sito di capo ti viene a pagare e entra in casa, mi. E poi voglio venire, se non so quello, no, sei tu. Ma io non lo so, vabbè, ognuno può fare questi pareri di piazza, Quella di Ciappani so cavoli amari. Avanti, grazie, riprendi. Non gliela potevano prendere la patente e togliela, avevano sospesa. E poi non entrato in più e se l'ha fatta scadere la patente. Non era in questa zona però, nella zona dove sono io. Era in mezzo, tra il monte e questa zona, già compreso Luca Galera. Buonasera a tutti, grazie a ragione Gio Maria, da San Bianco, mi bello un pipistrello, fa vedendi. Ciao Claudio, Bianco, se io non lo sento, come faccio a te, alla telefonia, quando sto parlando io, mollo, non risponde nessuno e parlo, se poi io a quello là non lo sento, cosa devo fare? Dei gufi di Boni, mentre ha detto Gio Maria, se no l'antenna esterna Boni, sia a livello agli olio qua. Arrivi a fondo scala dove in macchina e tu pari l'ufficio della sera cari gamboni, fa vedendi. Vai Gio Maria. Ehi, buonasera Cla. Ma che ci vedi io? Via e non l'attacca, non lo so chi io, boh. Da voi si lamenta, gatti, non per nessuno. Ma forza. Lui già ma non risponde a chi non mi sono intendi, a chi pare c'è pizzo sul garaggio, gatto. Grazie a buone antenne, questi che non intendi attore, capito hai, to avanti, va bene, avanti lui. Scusate un attimo che mi sto vestendo, allora, c'è freddo qua. E poi si è morto, e rivolti, grossi se possibile, ma con freddo di bassa, oh no qua. Freddo c'è Gio Maria, freddo c'è, freddo, io c'ho il riscaldamento, mi ha acceso dalle 3, ancora non è alzata la temperatura. E c'ho buco bigiama grosso, capito? C'è freddo, boh, speriamo che salga un po' la temperatura, se no così non va bene, non andava. Va bene, dai, proseguite, io sono al computer, semmai entro dopo a salutarvi. Di nuovo, ciao attore, ciao Gio Maria, Luca, grazie, riprendetela e fai la bravo, che io ti ascolto, compreso, se no ti con un colpo di gricola e no, Gimmi. Ehi, ehi, ciao Claudio, buona conquista. Gio Maria, è stato un pattuglio, Oggi è colpa mia. Cos'è che t'ha giù fatto? Avete fa vedato in due. Mi pisami dalla poltrona, a chi devo pisami in attacca l'antenna buca. Oh, è nato lo frigorifero. Ciao, Cla. Ciao Lugarie, ciao Marchiattore, ciao ragazzi, divertitevi, vai, t'ha giù di tutto la zona, chiacchiscio, io lo sapevo che era un radioamatore, però non gliela potevano prendere la patente, perché una volta che ce l'hai, è difficile che te la tolgano, però gliela avevano sospesa, alla fine, siccome non aveva più radio, se l'ha fatta scadere la patente, non vai più in trado. La cosa brutta è che era un uomo grande, hai capito, e certe cose non si facevano. Non l'ho giovati manco io quando ero bizzino, bizzoni, perché a me le portanti mi davano un bel fastidio, anzi, fastidio solo gagino, però portantemi, Luca già lo sa, ci scontravamo un po', fastidiami gagino a tutta andiamo, la portante non va bene, perché non ti puoi difendere, capito, quando tu a me è buona la portante, non mi dai la possibilità di difendermi, e allora bisogna affrontarsi faccia a faccia, avete detto Luca, se vai a che cosa, me lo di e ci difendiamo, no? Capito? Ma tu quando buono è abortante non stai disturbando solo a uno, stai disturbando a tutto il QSO, quindi non va bene. E Ghisso era imperterrito, però ci sono andate un paio di persone con le mani pesanti e ne ha rampato la Ianna, capito? Sarebbe buttato tutto e non ne ha più torrato bulu. Vabbè, ma sono cose brutte, bisogna evitare. Siamo divertiti tantissimo in radio, tutti, chi più chi meno. Io sono stato sempre più gasinista, lo devo ammettere, però poi basta, cioè ti sei divertito, hai giocato e va bene così, poi alla fine devi capire che quando uno entra in radio entra per rilassarsi, entra per farsi due chiacchiere e non lo puoi disturbare. Io qua vi ascolto tutti i santissimi giorni, tutti i giorni, anche ieri c'era la portante sopra Giulio, voi innanzi alle mani ve la ghiccio biribì biribì biribì. Dà fastidio, dà molto fastidio questo deficiente, capito? Lasciati io, siccome sono abbastanza attrezzato, ho girato addirittura la direttiva in UHF e ha ragione Luca, perché da segnale 3 o lù, nella tua zona dove sei tu adesso, arrivava a fondo scala, quindi è lì, non c'è niente da fare. Sì, è in mezzo, è lì, però chiaramente la direttiva ti dà un orientamento, io la mettevo a 280 gradi, 260 gradi, quindi intorno tra i punti e l'ateroce, e mi saliva il segnale a manetta, hai capito? E con l'impianto che uso dal radioamatore, perché ho le due direttive sia in VHF che in UHF, comprese anche tutte le altre, e portavo il segnale al massimo senza preamplificatore d'antenna, quindi ho capito che lì, ecco perché disturba, chi l'organo arrivi a livello agli olio, non copre a nessuno qua, però lì quando parlate tra di voi con i gommini è chiaro che dà fastidio e non va bene, non va bene. Vabbè, dai, continuo a fare quello che sto facendo, al limite ci sentiamo dopo, grazie per avermi fatto entrare, un saluto circolare a tutti. Vai Gio Marì. Ehi, uia, sta chiamando di me il classe, uia. Boh, entriamo 10 minuti, ma ammazza 10 minuti e non ci lasciano parlare. Mi sono stampicciati i clavi, il bersone, se ti saranno sempre, però... Siamo di qua, sino a farti ripigino. Ok, d'accordo, qua ci sentiamo dopo allora. Vai Lu. Ma infatti, sta presto sì. Vabbè. Ma è qua, cla. Al 100% qua latte dolce, fidati. No, dove siamo noi, no, latte dolce. Tra Gio Maria o la zona lì, più o meno. Vabbè, dai, ci sentiamo, cla. Avanti, gufo, riprendi. E qua, Graziano, non riprende. Qua ce n'era uno sempre, il 27, che rompeva, che, come si chiamava quello lì, aspetta, che ci metteva sempre la portanza, dunque, e pare era un cazzo raggio mio in lui. Ah, un periodo sì, è vero. Se ti ricordi, Cla, pace all'anima sua, vicino a Gio Maria, che a me mi accusava sempre che io mettevo portante. Meno male che tu sapevi che io stavo lavorando quella famosa domenica a chi faceva la canzoncina. Infatti poi una volta sono entrato per vedere se c'era con me, e sei tu, che poi avevo offeso anche a mia mamma, ti parlo di qualche anno fa, e tu infatti rientrato mi avevi detto che io non c'ero, che stavo lavorando quella domenica famosa. Mi ricordo perfettamente, era doveroso farlo. Buona di Mario aveva preso fischi per fiaschi, quindi sono entrato, siccome io con Mario avevo un bellissimo rapporto, un buonissimo rapporto, mi aveva proprio detto, Ciro di tutti credo, e gli ho detto credimi Mario perché è così, Luca non c'è, sta lavorando, so dove sta lavorando, perché guarda l'ho visto proprio io, capito, quindi non è lui eccetera eccetera, ma è così. Io, ripeto, quando ero più ragazzo non ho combinato di tutti i rigorori, 27 come tanti altri, ma era giusto per divertimento. E ho odiato sempre le portanti, sempre. Me la mettevano a me e a tutti. L'ho sempre odiato, perché è una difesa che non va bene. È troppo vatti riguarsi a dare do un microfono. Se uno ha un problema, va, ti sono a gamba e tu mi hai rompito i scatoli, così, così e così. Se ne parla, se si riesce a mettere a posto la cosa, si mette a posto. E se no te la bigli in gomma e la vossa ma, compreso, però mettere la portante non va bene, perché disturbi non il singolo, ma disturbi tutto il QSO, e non va assolutamente bene. E già lo sai, Luca, mi sto riferendo a chi i rumotti venivano un be, chi su che sedia a carrozzelle, che sta zia dove abitava Andrea Oceano in Chivica, cos'è, via Gabriele D'Annunzio, non era sempre l'abortante, chi dà su che mostro, un mattescino lì di via Pascoli, in croce via Pascoli, non era sempre volendo l'abortante, e purtroppo è così, capito? Perché io quando ho abitato 4 anni in via Pascoli, ne ho sgamato un bel di queste persone. Ma un be, se te la metti, l'hai muovato la bruva dell'amplificatore. E purtroppo, secondo me, anche adesso che c'è gente che non entra più, c'ha il baracchino solo per disturbare, forse per gelosia o forse proprio baffarlo con uno scopo ben preciso, capito? E va bene, vediamo se è rientrato Graziano, dai, poi vi lascio al vostro QSO. Sono qua che vi ascolto volentieri, mi vedi in compagnia che so con il computer. Graziano, dassa la golomba. Graziano, mi stesso mangiando i lunghi della golomba. Vabbè, cla. Non mi ricordo quello. Dice tutto quello là, quello che stai dicendo tu in via Gabriele D'Annunzio. Via. Dove c'è Martino, dai, lì, quella zona lì. E non mi ricordo come si chiamava il nominativo. Neanche io, non me lo ricordo sinceramente. C'era quello e poi quell'altro, come ti chiamava? 500, 600, come ti chiamava? Gio Marichi, sui tazzi a via Gabriele D'Annunzio. Tutto bibarinato in faccia, ancora esisti. Ah, Giovanni 500, scusa Giovanni, Giovanni 500, è vero. Povero chissà, se lo fai. Ma finirà un saccaccio, sai. C'era anche coso, non faccio nome, dai. Veniranno un be che passiamo in sindravagli, per cui... cosa vuoi fare? Non fai altro che fare, lasciate fare e basta, cosa tanto? Come ti fai? Ti cazzo con questa gente? Ti fai disagumare con questa gente? Basta mandare anche due mesi e ciao, buonanotte, cosa vuoi fare? Capito lui? Sì, ma infatti, no, io stavo per uscire tra un po', rientro... Forse verso l'una rientro, perciò non è che io ho detto così a farmi due chiacchiere, così per dire qualcosina, dai, di più e almeno, ma poi viene disturbato, non è bello. Già che non entra nessuno, vedi voi se io assendo, non va nessuno, musta completamente. Tu l'altra volta mi hai detto, non tutti rimani attaccati alla radio, vabbè, quando si può parlare si fanno due chiacchiere, non c'è problema, quando non si può, pazienza. Io ho detto l'altra volta, non c'è mai nessuno, ma niente, cioè non è che... Se c'è, bene, se no pazienza, dai. Vediamo un po' se c'è Tore, riprendi. Ma io, già che ce l'ho poca voglia io, mi sono pure traccato, deve stare in frequenza, magari entro, però mi stanco subito e magari chiudo. E non è più quella voglia di prima con una gara, addirittura se ci vuole... Ma non dormia, basta che si è attaccato lo paracchino. Vai, da ragione, forse anche all'età, non ho più voglia. E sento 5 minuti, sento una cosa del genere, capito? E ti rompe, capito? Ti rompe, però cosa ci vuoi fare? Spegniamo e vuol dire fermo un'altra cosa, o no, Cla? Assolutamente sì, Giovanni, sono pienamente d'accordo con te. Ti ripeto, ribadisco e tu mi conosci. Mi hai conosciuto in persona da grande, ma in radio mi hai conosciuto, io una giocubera di tutti i rigurori, però importante io non ne ho mai messo nessuno, mai, capito? Mai, perché è una cosa bruttissima, molto brutta, ripeto, ribadisco che disturbi tutto il questione, non disturbi la persona singola, e quindi non va bene. Barotò, ti dico... Chi sia là siamo guatruiate, io rispondo come Gio Maria perché anche a me me ne è passata, non dico la voglia, però la passione, la cosa, per tutto quello che ho, per l'impianto che ho potrei stare a girare tutto il mondo, non ne ho più voglia. Io sono entrato nel 1974 e a oggi, nonostante sia 25 anni di radioamatore, non ho mai lasciato la 27, però purtroppo non c'è più nessuno, non c'è più dialogo, non c'è QSO, quindi ti ribassa un po' quella fantasia, no? E quindi accendi qua, ascolta voi, ogni tanto entro a fare due chiacchiere, ma non c'è più quella voglia che c'era prima, però se gli imbecilli che esistono ancora, agattani un Claudio, un Luca, o forse anche un Gio Maria, o un Tore di 20-30 anni fa, non lo so così si funziona così, capito? Perché Luca ci siamo conosciuti in un contesto un pochino, non dico animato, ma comunque abbastanza. E quindi è così, perché io non ho mai sopportato a me, quando mi bigliano il baroguro alla radio, vediamoci, parliamone se possiamo discuterne, se non possiamo discuterne pazienza. Però ho sempre affrontato la persona faccia a faccia, non mi sono mai nascosto io dietro le persone, Luca lo sa. Quindi se si torna indietro negli anni passati, queste persone oggi non sarebbero esistite, perché nessuno sta facendo niente. È giusto per fare due chiacchiere in una frequenza assegnata tra l'altro dal Ministero. Non c'è neanche pirateria, non capisco perché uno debba entrare e rompere le scatole. Compreso, Aito. Espivo. Ma si può. Avanti, signor Bacchisio, buonasera. Buonasera, signor Figaro, buonasera anche a Claudio e Tore, non so se ci sono altri in ascolto, Bacchisio li saluta cordialmente. Avanti, signor Gio Maria, riprenda lei. Ok, signor Bacchisio, buonasera, ben entrato. Come sta, c'era Claudio e Tore. il sottoscritto Luca e Graziano che ci deve essere assentato, che non sentiva a Tore e si stava lamentando. Vediamo un po' anzi se c'è, che lo richiamiamo. Avanti Graziano. Oh. Avanti col ciao, Graziano non risponde. Graziano non vuole parlare, ok. Rimettiamo tutto a Claudio, nonché a Pasqualino. Pasqualino, avanti, buona serata ancora. Ciao Bacchì, buonasera, lo sai che è un onore quando mi chiami con quel nome. Il Marco Gunicido là, già che avevo 3 mesi grande e moscio. E tu lo sai, io ho anche quel nome, quindi per me è un onore essere chiamato così. Ciao Bacchì, buonasera, ben entrato. Oggi arrivi benissimo, rimani un po' garito troppo basso, quindi sei caratterizzati, buludù. Tanto queste antennine esistono, conviene usarle. Va bene, dai, io vi ringrazio per avermi fatto entrare e fatto fare 2 chiacchiere, manco aggiungate i fagli alla radio, voi siete pettolata. Continuate voi questi occhi e io mi termino 2 cosette al computer. Se ci siete, semmai ci sentiamo dopo. Ok? Vai, oh, Ottore, fai girare tu. La più cordiale buonasera a tutti comunque. Sì, ciao Claudio, buona serata. Buona scrittura sul computer, ci sentiamo ancora. Capito? Allora, maestro, c'è anche Luca, c'era, così è Gianmarì. Confermo, Luca ci sei. Ehi, eia, ciao, buonasera. Mi stavo rigelatinando, dai, che si due barini mi sono rimasti in capo, che sono quasi in uscita, dai. Ok, ciao Luca, buona serata, ma lo sapevo c'era anche tu, dunque, scusa se non ci ho dato prima. Bene, Meda. Graziano, vediamo se mi risponde. C'è nessuno? Avanti. Buonasera a tutti, sono al Centro Storico. Ah, Centro Storico, sì, mi ascolti, sì. E a voi, a Luca ti ascolto, sono il contributo di Emanuele. Ah, cavolo, anche lì arrivo, eppure ostacoli ce ne sono tanti qua, Strano, Cosa, Pompo? Hai accoppiato lui. No, è al Centro Storico. Ha corso, dai, ha distratto al bar della pizzeria. Io ti ascolto comunque, tu non sei là. Claudio, non senti alla Pomponio. Ha chiuso lui. C'è anche Ettore comunque, avanti Bacchi. Luca. No, Pomponio lo sento a ratte, un po' lo sento, un po' no. Non so lui se mi ascolta. Stasera è handicappato Antonello. Avanti, signor Tore, riprenda lei, tutto quanto il microfono per lei. Questa è la cosa meglio di cazzata, avanti. Ok, il barretto di mettere gli occhiali, se c'è il sole così è chiaro che questo sole adesso fa male agli occhi, a testa, bisogna stare attenti. No, io già lo sento Antonello, lo sento anche benissimo, per cui... Così Antonia, mi sento a me. Vabbè, sempre sopramodulenti, e cosa andiamo a fare a questo qua? Oh, Luca. Perché è sopramodulenti? Graziano. E allora, è sempre sopramodulenti questo. Quando lo chiamano entra. Non ruggiami ed entra, ti sopramoduleggia, avanti, dimmi tu cosa riboscio di... Avanti, guffo! Ehi, sono travagliente, vedete, sempre c'è la pittesi, ti rimattinetti! Attenti, Gio Mario, ho già te, fidami! Ehi, lo saranno, dati calma, tra giusto oggi... Non ci ho fatto il lavaggio alle orecchie, capito, il Camanzano, e poi se non intenda nessuno, per carità. Avanti, zafferato, del magnete della colomba. Ecco, ma questo non può entrare. Vabbè, sorvoliamo, dai. Magna, a Fucidini. Vai, Bacchi. Ehi, Graziano, oggi è impegnatissimo, sta lavorando sopra la colomba. Lavorando sulla colomba, tra poco vola, a vedere la cosa emopiopea che vola, sta più in alto. Vediamo se Antonello mi ascolta. Antonello, avanti. Da nada Gianmarì, io lo sentivo benissimo in un passaggio solo, poi avanti non intendo più. Aspetta che lo chiamo. Antonello, forse è entrato ABC la bionda. Senz'altro, è entrato ABC la bionda. Avanti, riprendi Luca. Io prima lo sentivo non bene bene bene, ma riuscivo a tirarlo fuori. Sicuramente il Claudio lo sentiva bene, perché essendo in alto. E vabbè, comunque. Graziano è travagliente, inteso, abbiamo chiamato 20 posti. Quando mi sento io, dico, ma che cosa, Tasi? Lui dove sei? Lui. Tra su capo a pallone, già mi ha detto, ma come ti rispondi? È sempre sopravvolente. Poi per apprezzare sai tutto. È l'importante che abbassa un dito e poi fa vita, boh. Che sia famiglia che si dice, non gli interessa niente. Vai, magna la colomba, magna. Se fai da travagliare, chi si magna la colomba? E Tore non c'è più, Tore, avanti. Ehi, Tore, lascialo va. Se no fate peggio, Graziano, lascia la magna della colomba, va. Mi sono avanzati lì, i ribelli solo della colomba mi sono rimasti. Dopo il lascio soltanto magnato, fra poco rientra. Graziano, dammi un ok, avanti. La bocca piena, va, non ti può rispondere, ma chi? È proprio così, Gianmarie, proprio così, non può rispondere. Però dopo ti fa metà sopra. E beh, all'ordine del giorno, non chiami e ti rispondi. Certo, lui chiami e non rispondi, beh, secca, certo. Oh, yeah. E beh, to, com'è la serata lì? Ah, bene. Vai, è già una cosa buona. Oh, a me non mi è mai piaciuto Lucaccia di avversario, però le partite internazionali me le guardo. Però non dimmi partite, pure partite rosse me le guardo. Però andà proprio a sentire la televisione, proprio a vedere la partita, così no, Se sono partite internazionali me le guardo tutte, però, Io c'ho un programma nel telefono. E poi vedere tutte le partite anche, gratis, in diretta. E poi Mediaset, la Rai, tutto. Tu non devi dire queste cose, no? E se la futti? Un programma, Giovanni, è su internet, mi. Vabbè, è un po' tu. No, non le fa nulla, e poi cosa mi fai? Un programma, e tu vai su internet, cerchi il vostro programma e c'è. E ti guardi le partite. E accappiate, magari, là. Accappiate. Io ogni tanto quando la danno qualche partita la sera me la guardo, però per esempio la domenica non ne guardo mai, però le partite internazionali se ci sono e me le guardo e come sono così, mentre invece il pugilato tiro un capo per vedere il pugilato, sappa cosa? Il pugilato c'è bello lo stesso, a me piace un bello lo stesso. A me l'unica cosa che non mi piace, sono sincero, è la Ferrari, la Formula 1 non mi piace, la pedalla. Ma è piaciuta, invece le moto sì, moto GP sì, ma la cosa no. Poi un po' di calcio, guarda, ma le partite che mi interessano, Adesso ci sono! Era signor Tore, adesso ti sento! Perché ho messo quella lì che mi ha detto Giorni Maria. Era ora, davvero, era ora. Ma vedi un po' com'è questo qua. Non lo chiami e ti risponde. Ma chi? Cosa bisogna fare a Graziano? Giorni Maria, bisogna mettergli un interruttore. Un interruttore bisogna mettergli a modo di comandarlo lui. È proprio, bisogna fare così, non è possibile, ragazzi. Comunque, Otto, adesso ti sente bene o male, evidentemente si è deciso, avanti, bello bene, avanti, boh, non so chi... Ehi, ciao, ma chi sono ben sentita, avanti a Nintendo, ma... La giubilata che era un basso di chimico, con la roba che non ha giubilato da un dindindoggio, mia, che era un basso di passaggio di chimico. Capito miei, che io lavoro sempre qua, diglielo Bacchi. Ehi, Giomarì, lavora sempre, l'ho visto io lavorare a Graziano. L'ho visto io, Giomarì, lavorando con la colomba. E dunque, te lo assicuro che stava lavorando. Avanti, lui. Sempre travaglienti, tu, iaia. Quelli mascelli travaglienti. Ma si chiami voci. Non ha mai visto un burundu che lo travaglienti in un terrazzo, già. Ah, vabbè, ma a pranzo, non a vanno. Ah, va, ah, giù compreso, dai. Praticamente, allora, a pranzo hai mangiato due pe, e da poi, insomma, t'hai pulito un terrazzo, mi pulisci. Mi devo bisogno di fragili, che se no l'unitore mi rinfonde, e da poi domani ce lo devo trattare in fuso, con il carbone che è rimasto trento. Capito, mia, Johnny Marie? Esatto, ho capito, Ma tutta te l'hai lavorata quella colombo, ancora ce n'è. Adesso ti risponde lui. Ma cosa mi ha chiamato Paoletta? Credo, dottore, avanti. A me, vai pure no che la colomba, Gio Marie. Quelle cose di cioccolato, non ne ho mangiato, non è una cosa che mi affida. Non lo so. Invece, qualche anno fa, il pandoro lo stesso non mi attirava, invece... Nel 2017 l'ho mangiato, abbastanza. Se non è scaduto già è buono già. Bisogna mangiarlo prima di scadere, capito? Oppure mi sembra che c'è il pandoro, c'è il panettone. Oh, e chi ne mangia? Oh, non saranno. Ma caspita, ha toccato tutti i due, il pandoro e il panettone. Una fetta, e ancora se così, e che ritocca più. Gio Marie, ci fa un dolce. Fa un dolce adesso, ma se ti invitano, devo dire a tua moglie, ci fa un po' di crema, poi prendere l'alchermes e la rega. E la inzuppi di crema, è una ticibona. L'ha fatta una volta un amico, ma buona a me. Un buon boe. Per buttarlo ci fa un dolce e ce lo mangiate in famiglia. Ma noi siamo un po' pregiriati purtroppo. già la mangio qualche fetta, già la tocco, però ogni tanto così qualche pezzettino già la mangio, ma non è che la mangio molto. Graziano è che sta sempre mangiando panettone, pandoro, colombe, adesso sta divorando la colomba. E da innanzi rimane che le mastichette, gatta, ancora è a finirla. E allora, anche io vorrei passare a colazione, mangio colomba adesso. Il periodo passato era panettone e pandoro, li ho fatti pure a tutti. Ma stamani niente colomba, mi ho mangiato i biscottini integrali. La colomba d'ora, prima. Inteso hai? Sì, mi pare che tu, la colomba ha fatto le butichine, ci si mangiando le butichine, va. Sì, ciao Bacchizio, ciao Luca, ciao Maria, Ettore, la colomba giorno la si mangia, che non finne più. No, se non finne più, finita, dunque manco di bisogno vi so più. Tutto faccio mangiato. Tutto bagnato, dai, Tore, cerca di metterlo in lenza, a lenza Graziano. E allora, stamani mi sono cubisato, capita 61, che cosa è successo? Ma deve essere imballato il subiso. Guascio lo biso, no. C'è un rovescio, l'ha deciso però lo biso, Più tardi, e penso a 72. Con lui, prestagli la bilancia a Graziano che si pesa, perché la sua è imballata. È un bilancio digitale, non è di la lancetta, a voi che pesa. È digitale anche questa, lui. Ma stamana giusto, boh, è cosa imbriaca sta cosa. Ah, dalla sera oggi sono occupato, si cucchini intuiti, boh. Sarà tutto il suo sangue, che mi l'ha succiato stamane lo vampiro. Tu i bracconi! Vabbè dai, ma ti hai fatto la visita, sto a me, Devo fare l'impegnativo e andare a fare dei controlli. Tutto fatto stamattina, gli ho portato anche chi su cosa metto Gio Maria, chi su minori dove metti le analisi dentro. Non mi ha detto nulla. No, me l'ha chiesto però quanto ne avevo fatto, Sto guardando questo computer, bello, fisso, tutto illuminato, una bestia, bello, tutta la tasta è illuminata, i tasti illuminati, proprio bello. 650 euro se vi interessa. Ma io c'ho un computer, Barò, ma non è Babbo Natale, no? C'è tutto illuminato. C'ha 8 giga di RAM, 1 terabyte di hard disk, poi c'ha un processore i7, nulla, Ma chi io compratelo? Qui non è c'è tempo, no, Grazia. Né tempo né denaro, capito? Né tempo né denaro. Già c'è, lampada una base. Vabbè, allora compratelo tu. Alla prossima, domani se Dio vuole. Ciao e buon proseguimento. Ciao Luca, buona serata, buona pesce greca, a sentirci domani che tutto va bene. Buona serata ancora, avanti Gian Marino. Pacco, ciao Luci, sentiamo, vai. A domani, buon proseguimento. Facci sentire, vai tu. Eia, ciao Luca, buona passeggiata. Non ti mangia tutti i ridinà. Ciao, a domani se coincide, bella be. Ehi, ciao, sono da Paoletta, ciao, buona serata a voi, ciao. Cambiati. E chi te lo compareggia che c'è un computer, grazie a... È tutto quanto pieno di femmine, così che non avevo bisogno di femmine noi. Per cui non c'è bisogno di nessuno che c'è un computer. C'ho il tablet, si raggio tutto da io, non so falso. Faccio un computer, un tratto di ogni tanto, ma farlo funzionare. Ma... E cosa ne fai? Puro Cristo, mi sa che passenni... E passenni come te li baracchini, puro Cristo. Vendi tutto, grazie, vendi tutto, dai. 20 euro se me lo dai, un dopo. Ti rubi due euro. E posizioni di tutti i colori e qualità. La giudizio da Savani, di Bosso Quindilli, Noiti, lo Zodiaci, abbinato con la camera, ecco. Femmo un brocco, femmo. Per un brocco lo manda a me, si per un brocco lo manda, quindi che da Sarichini del Tramadio, friscia lui, lampati di già Vicenza, lo Croset. Chi tu va via a prendere, ha già aggiunto una manta, Tore. Ora, ma non sicuro di porti ben, porti bene la cassetta, è sigillata. La domani la sentiamo la 27, così che capa di rapiso a chi, la domani siamo i 27 sempre, E il 28 non si può assì. Capito me, bello me. Qua non ci siamo, siamo i 27 da domani. Luni mi vendo tutto a Piazza dei Segni, piazza la bancarella. Chi interessa salga a Piazza dei Segni. E a Vicenza virai? A sottobanco, un bongo. Per carità, ragazzi. Detta a Mario, ho coperto con la manta a burro, bacchi. A chi si avvita lo freddo, compresa, e la poccia la manta a burro, la poccia. E imburicati, a me che lo tira su biberon. Capita. Grazie a noi mi ha mandato le foto a Osè, tu no. Cinque giorni mi hanno mandato foto a Osè, ma una peggio dell'altra. Ma già metti un burro sportello così entra un galone di lassù pagando alza, battini l'incaggio. Ora è ancora giocando stanno. Ma cos'è il girone, cioè il girone dei ragazzi? Partita amichevole sono, ha giù capito, riprendi Gian Marie. Hai visto che personaggio è Tore, ha di voler fare i ributti, li porta a passeggio, non sono tutti così, no, così è Tore. Insomma, non fai figliori minore, però, e ci devi combattere il figliore, vabbè. Sono di famiglia, per cui tu almeno ci sbaghi, dai, e ti fanno uscire sino altro. Fai bene, fai bene. Avanti, bacchi. Sempre non mi intendi il tutore, se caso, Giovanni, sempre non mi intendi. Ma sai, Tore, che nipoti bisogna accontentarli. Bisogna portarli in disegni nei buddi, no? Fa come ti fai tu. Sì, domani è da domani. Fanno bene che ti mettono lo sprone, io nonno andiamo. e fanno benissimo, portali a passeggio, porta, se sei bagato e attirati di nato, io ti vennero, fai così come ti dici tu. Grazie, non lo vuoi ammettermi che vennero, gli basta 100 euro a settimana. Allora, chi è di non farsi nuda, pannuda, Jeff Lompiarello, e da me mi sono passato prima di Eddu, quando mio figlio l'accompagnava a Trecce a sinistra, da un paese all'altro in macchina, pari a un macco a Trecce a sinistra, alla fine una lì mi ha fatto andare, mi ha messo in cappaese, e chi tu l'ha detto, se ti ritardi non ti ammetto per giocare, l'ha detto, da oggi poi mi dia adesso, dimmi di è da pigliata a casa se ti vuoi aggiungare, che io non mi vengo più. E allora, andai via in macchina, io mi arrivavo mezz'ora, la mia moglie, tutta la tribù, da poi arrivi chi e mi dici che ero di ritardo e non potevo più giocare, oh! Allora fammi una cosa, da oggi poi io non accompagno più bene se la vuoi a giocare a quadratura, ti la biglietti se la butti, e così fa zia, che non bisogna più andato, hai compreso? Un attimo, Bacchi, riprendi subito. Come fai, come li fai? E così è, grazie, bisogna fare i prepotenti, se no sono davanti. Una via di mai mezzo se la zaffarra, cucù. Con due genitori di altre ragazze che erano i favi di animali, erano i botti che in campo, a di un mazzo a farla, la volta di tu, e adesso arrigando, no, non ci sono più andato. Che forza si fa seguire, piglia uno e l'altro, alla fine la benzina si frazza, e sono i buoni andano a piedi, capito? No, noi ce l'abbiamo tutti noi che ha portato di mano al campo qui della Terol, ce l'abbiamo. Dunque, dopo ci andavamo in fura, per un pullman pagato dalla società e viaggiavamo in pullman. E vabbè, bisogna andare sempre in anticipo. Bisogna essere sempre anticipate le cose, se vuoi andare bene. Non è così, grazie a... ma la di... non me la mento cos'era successo, e se mi arrivi in ritardo un bagaglio, anche se noi eravamo sempre puntuali, anche arriviamo sempre prima, ma qui in campo erano entrate ancora. La volta della sera, con le cose girate, a chi ha fatto il ritardo, passa 5 minuti, stanno già entrando a giocare. Oh, e allora non gioca. Cosa? Beh, fa una cosa. Io non mi vengo più, se la vuoi bene te la biglia, e così fa zia. La cosa più giusta era. No, noi che andavamo in fura, ci vira lo pullman, andiamo viaggiamo tutti in pullman. Allora, a Tarola devo partire, a Tarola devo essere tutti in un campo, e ci ora si partia, e capio. E poi se non ci ho fatto 2 anni, e dopo mi figlio se che ho fatto, e che ho fatto mi so che io pure devo andare a accompagnarli. Perché poi ti stufi, mi cosa? Molte volte andati e la bonia in banchina, a ruota di scorta. E cosa me l'hai fatto venire ai nomi? Ma hai dato il bus ad Ivi, boh! Oh, e poi mi aveva già stufato anche a me. I chi me ne sono voluto. Ah, ove? In panchina devi ponere sempre, una volta ogni tanto bisogna fare pure panchina, non devi sempre giocare uno, devi giocare un po' con tutti, capito? A giro. Se poi veniva uno solo, come te, mio figlio era portiere, veniva uno solo e giocava ogni chieta, giocava a chi? Era un portiere solo. Ma molte volte la faceva entrare a giocare 2 minuti, e boh! E no, andava. E allora, è logico mi stufo. Mi comanda a far legge, Givi. Avanti, Tore. Beh, ora è finito il campionato, andando. Ti ritiri e via. Non ci vai più. Hai uno stress puro, capito? Perché noi giravamo un paio di rughe, non avevi solo sasso, giravamo i paesi. inferro, una volta a mettere l'inferro e siamo andati a finire dopo di tempio, cos'era? Un momento che a paesera, disperduti in una montagna. Era un freddo più aiato, era pure le picchente da lì. A Calangiano su! No, non è a Calangiano, se dopo tempio devi salire ancora più in alto, dopo tempio. Devi passare ai piedi di Limbara e salire su. Non so che paesera. Monte San, no. Monte Santo, no, ma un nome così va via. Sant'Antonio, c'è il paese Sant'Antonio, puoi passare da Tempio, se no puoi passare da Olbia, puoi passare dalla strada di Santa Teresa di Gallura verso la Maddalena, poi li trovi l'incrocio e sali lì, già lo so dove. Anche io, cioè, ne facciamo un bel mille paesi, anche nel Cagliaritano, Iglesias, e tutta la Sardegna, in poche parole, passasse Vogu, la Erru, Siniscola, ma via vai, avanti anda, ma... andare in macchina con il pulmino. E io si dava i paesi, si dava i paesi, via, e quando c'è proprio che i pistini prepotenti, in pulma, ti va di anipetto, via, pistini, c'è un tira, via, da 17-18 anni, ti chicciavani, non ti da di in retta, e adesso vuoi arrivare. Allora, so è così, non durava a cabacacco, quando durava, no, adesso già gioca a calcetto, anda allenamento, si fa tutto questo. Via vai in manna, per forse si fa tutto questo, sei chiaro che mi accompagna là tu, allora si fa tutto questo, e beh. Prima quando sono piccini bisogna accompagnarli, a dopo bisogna lasciarli andare a sura, come hanno fatto tutti. Avanti, si otto. E la teglia ti fa di me arrivare con gli iri, ti tieni in movimento, vero Marchi? Sei candido. Buonasera a tutti. Buonasera signor Marino, buonasera. Buonasera attore, ciao Marchese, ciao... Ciao Cristiano, non so anche dicevo che ho acceso appena adesso, 15 minuti per fare una chiamata che sono subito. Bene, e perché mai vi fa accompagnare tua nipote o 8 di C? A me mi fa piacere invece, guarda. A me così mi dice, vai, si chiamata, il bufalo di vai. Avanti tu. Benissimo, tu come sempre, sempre bene, già lo sai, sto scherzando, io lo so. Prima di fare mamma, poi vi dai sempre di incontro, devi accompagnare, e vabbè, purtroppo bisogna farlo, poi da vai, così lo mandi, magari tua figlia sta lavorando e così via, tu sei più libero e vai tu, come succede anche a me, io vado a prendere la scuola, adesso domenica mi tocca prendere, portare la capo al campo e così via. Bisogna farlo, otto, la vecchiaia è carogna, io già ne so qualcosa, avanti, signor Bacchisio. Marino, ma dimmi un po', più forte di Torre sto arrivando o più debole di Torre stasera? No, sta arrivando bene, c'è una piccola differenza, che Torre la modulazione non si sente nulla, è bella pulita. Tu c'hai leggermente ma poca roba, un po' di querene, ma poche niente, Bacchi. Come fa prima sei un amore, dai. Non va bene oggi, no, oggi non va bene, allora dovete spostare leggermente. Leggermente si sente un po' di QRM in sottofondo, però come modulazione è forte. Ti ho detto l'altro giorno e arrivi, sbaratto. Sai perché è forte? Perché l'ho messa sotto aceto due minuti quell'antenna, e dunque penso che abbia preso un bel po' di aceto. Avanti, grazie a... ciao Marino, ben sentito! E quella della 27, ma chi l'ha sistemata là? Ehi, ha sistemata la 27, grazie, sai cosa c'era? Il vento mi ha staccato il PL, c'era il PL staccato, era a 10 cm dal bocchettone. Ma io te l'ho detto, Oh, sicuramente a noi si nuda così, sì, ti ha trattato il filo. Era successo anche a me. Eia, e avanti non lo so, magari burumè così, mia. Ecco perché c'è quella stazionale. Magari le arrivi di un pezzo di chi su catrammo che venne dalla capitura a svolassenti. E me l'ha toccato, non lo so, ci devo salire a vedere una giornata e fa bello. Non mi l'ha svitato proprio, sembrava che uno me l'abbia svitato per dispetto. E anche l'antenna è mezzo capotata, quello stile domani, no, domani non ce la faccio. Quando mi sento bene lo metto in piedi normalmente. Infatti adesso poi a Marino lo chiedo un po' se mi ascolta in 27. Marino, la cena ce l'hai la 27. Oh, ma chi non c'è bisogno, guarda, in questo momento sto aprendo, guarda, accesa, e sono già sul 23, avanti, entra. Guarda se mi ascolti, Vogliamo fare una prova. Ecco il microfono, è questo. Vedi Marino, mi ascolti adesso? Guarda, 1, 2, 3, Marino, vai. Così. Guarda, ecco la giugna, insomma. Mi sta con questo freddo. Bubu. Ma gente a cena. Chi sui è vero? Ehi. Per carità, caso me la metto, io ho già fatto burue via, boh, mai più non saranno, via. Ma è un di la compagna burua all'allenamento. Ah, via, per carità, ma perché è sistemata l'antenna a Battizio? E non ha controllato il filo, se l'ha saldato voi, se l'ha posto su. Cosa l'ha avvitato così? Magari l'ha trattato pure un filo. E allora non gli ha messo manco un giro di nastro a questo pelle, nulla, l'ha posto così e ha avvitato. Almeno un giro di nastro gli doveva dare, per tenerlo bloccato, là, diciamo, anche a isolarlo un po' dal leva. Ehi, che dici, fate mezzo asso a venire, il giorno che salga a pulire il tubo della stufa, guarda a vedere, cosa va e cosa non va. Ma comunque ieri attaccato la 27 ne avevo una e mezzo stazionarie. Preparato. No, c'era un periodo che era tre addirittura, bisogna vedere, magari si è allentato o ne esce di un altro, cosa ne gioco, quando altro già lo vedo. Fidela, grazie a fidela. Funziona bene, ti sente, ma una bomba, sì, grazie, una bomba, pulito, bello chiaro e limpido, l'ha fatto con perlana. Allora domani mettiamo la 27, così facciamo contenti a Gio Maria. Ma era venuta gente da Gio Maria. Ci ha detto che c'era arrivata gente. Ah, ecco. E che ora sono? Le 7 dite o le 7 e un quarto? Sì, si è sentato un attimino, ma mi pare sia tutto sparpagliato. Marino, vai. Io entro, ma mi devo spostare 2 minuti, mi sta chiamando il mio confinante che... Se dobbiamo parlare di una discussione, non quello là il pochetto letto attorno a Bacchì, il mio confidante proprio l'amico, diciamo, dai. Ok, ci vediamo più tardi, dai, riprendi Bacchì. Ok Marino, dai, che ore sono adesso? Sono le 7, io ancora una mezz'oretta, poi ci va a mangiare. Avanti to, non ti muovi dai ghibi, Marino dovrebbe fare qualcosa. Graziano devi mangiarsi a colomba, allora la Sanremo. Aspetta che vado a vedermi le due robe che ho lasciato fuori. È entrato nella bimbi quel colpo. Vabbè, aspetta, riprendi tu. Adesso lì che mi campagna la berra che ti fa male, è nata solo la berra buona. Alla Marino che era sotto a Reggio in campagna, Marino ancora ci sei. Infatti se sei ancora in ascolto, se ne ascolto. una bella guascia ti la pugna sottoterra. Graziano, ti serve una bella di capo di dole guascia? No, avevo combinato e con l'accetta che hai bussato i baletti, Marino. Non ne posso al conto. Marino è un commercialista, prendi i conti. Ma va, prendi i conti, fai il corso, cosa è dopo il marchese? Va dietro subito. Va benissimo, Graziano, siamo in zona. Ehi, ehi, allora. E così è. Già. Pitore. Pia, non mi senti? Ho detto, a chi devo sentire? Stasera l'ho visto anche, mi ha dato un passaggio lui. Sono sceso a piedi e sono salito in macchina con Tonino. Sono sceso a piedi, sono sceso. Ieri sono sceso a piedi, oggi sono sceso a piedi lo stesso. È una passeggiata, perché a guidare in macchina non mi va bene ancora. Sono cucito le spalle, non mi posso appoggiare. Pia, fatto. Sceso a piedi. Tre quarti d'ora ci metto a campagna, ma piano piano, senza prendere il coso. Una passeggiatina. E infatti, piano piano. Poi a salire ho trovato Antonino, ma detto, io ti do un passaggio, io. Oh. Ehi, veda. A me invece mi hanno mandato delle fotografie così. Di femmine da maniera. Cinque me ne hanno mandato, che sa che non sono riuscito a capire chi. Cinque me ne so, Alemani era in galleria e mi ha fortunato che a Mondezza. Io non so come si cancellano, boh, non ho compreso nulla adesso il telefono. Quando ti trovo me lo fai tu. Non mi interessa proprio affatto. Se era l'elicottero bianco, e cos'era l'elicottero bianco? Boh, la finanza non può essere. La polizia non può essere, se è qualche privato. Chiamali, dici voi scendete qui, forse, al buio, l'elicottero non viaggia al buio, viaggia perché quelli sono a vista a viaggio, no, si vede ancora, no, io sono potuto in casa, ho avuto attesa, no, ho perso l'orizzonte, magari in alto si vede ancora di più perché non c'è ostacolo di coso, vedono dall'alto al basso si può vedere. Guarda, rimandato! E l'avrai visto. Avanti, grazie. Fece grazie, mi ha chiamato. Sì, cosa hanno mandato? Pagano venire, lo posso in forro. Oggi vai da lì, ma già acceso il barbecue nel terrazzo. Capocollo, bisteccone con l'osso. E hamburger, ciota col caronga. E poi ho fatto anche due pannocchie di Gran Turco, buona reti! Pannocchie hai mangiato? Grazie, si è mangiato le pannocchie oggi, Graziano. Dopo, Tole, tu pannocchie mangiato ne hai? Parruccio è nata la graviglia, non hai piantato tu, Bacchi, non hai piantato pannocchie? Ho piantato quest'anno, no, Graziano, non hai piantato, no, mi sono dimenticato. Ah vai, taglio a piantarlo, che grandisce, a maggio mai esci. Ce le piantavo già, per fare le mutandine poi. Buona reda, piantale, quando è che si piantano? Se le pianti te le compro io. E mi bisogna dare, me lo posso, o il forro, o se no si facciano un fuoco, acceso, le abbrustolisco sulla graviglia. Che è più tempo che è buona. Sono buone, però questi di campagna sono più buone ancora. Che fai? Ti rendo della pianta, poi rendere un coso, una brascia. E io che andiamo? Già lo so, ma qua in zona non ha giù in nessun luogo piantato. Se no vai le entrate ve le avevi preguntato se mi rivendiamo poco. Senti, una ciappi, la strada di coso, di Santa Teresa, da voi invece io sono un tancato, ogni anno lo piano di trigo d'India. A me mi piace un bel, fatto così però, quello che vendono in barattoli fatto così non mi piace. Invece lo prendi e lo abbrustolisci sulla graviglia. Caspita, a me mi piace un bel, ma non è buono odore. Però io questi che compro li prendo alle rospiglie, ho visti. Mi sembra ci sono anche la Conad. in ogni confezione ce ne sono due. Però chi pigli dalla campagna sono ancora più buoni, sono più saporiti. Cioè, sono buoni questi, ma come quelli freschi appena tagliati. E dopo li vedo. Mi piace assegni, ma i tubaletti lì, che li vendi? Allora vanno a vedi. Lunedì però, Graziano, lunedì solo, eh. Lunedì a Caporto Torre, se piazzetta li venderanno. Però sono quelli proprio di campagna. Quelli di campagna. Allora a me ci vado a vedere. Io, andavo a vedere. E sono in ritardo, se non l'avevo piantato. Non mi sono cammentato a cannolo, ma non ci ho piantato manco il vaso rotondo, ma ci siete un poco. E beh, se li metti adesso, se quanto siete, molto di ritardo. E quando lo raccogli? Quindi dovevo raccogliersi in maggio, giugno, luglio più tardà, ma che si ripiantava, io penso, passiamo agosto. E ma già i cini romastesi, sempre voli su. Vi voglio provare allora. Ah, quando è asciutta un po' la terra, che avanti non si può entrare, è tutto rosso. Se è asciutta un po' la terra, con quanti piante le pianta, vedi cosa esci. E mettine una diecina, ne metti, va, ti provi, si esci, ne esci, ne si non fa niente al prossimo anno. E alla fine te lo socco te lo battato, lo pongo. Così quando ne cavo lo battato ne scendo pure a metà dei piedi. E così, già ci provo, però se, ripeto, grazie, se non è asciutto un terreno non si può entrare, è tutto un lozzo. E beh, chi ce l'ha fatto, chi ci... vabbè, ma se oggi è andato a vedere, domani se non piove, e a andare l'unica è asciutto, penso. Speriamo che asciutti, speriamo, a chi faccia un patato che ho morigato. E se ti assenti, se no da poi comincia a cavare un battato e quando anda a Morigallo lo tagli. E io sì. Eia, e beh, Tore, mangiamo le pannocchie. Laggiù tutto rossicato, tutto in giro, laggiù girato. Prima laggiù col coltello me laggiù tagliato, laggiù fatto quadrato. Da poi ha fatto lui quattro angoli, da poi mi si raggiù tutto, una ronda prima di un fa. Allora così ho fatto, grazie, a ronda, gira, io che andiamo. Però è buono, a me mi piace un bel, è un bel saporito. Solo che se ne mangi un bel in grassa. Ma io ogni tanto me li compro e me li voto, no? E spesso che li voto. A chi c'è di ingrassa, niente? Ingrassa, vado i pannocchi, hanno fatto nulla. Ingrassano un poco, per ingrassare noi. Allora, se abbiamo un poco, oggi ha giusto andare da Ruttori, ghiande in quei giardinetti lì, vicino a casa tua, ma chi? A canna ci pagliate, lo faccio rotondo che ha piantato Graziano, faccio rotondo che è un amore. E non l'hai piantato, e sei in ritardo lo stesso. Male, a me già mi piace, a me tutti i legumi li mangio, Fagioli tondo, fagioli babba, quei fagioli più grandi, le lenticchie, io li mangio tutti i legumi. No, li fagioli tondo per mangiarlo fresco, capito? Lo poi sotto lo braccio, la maccia, andendo e mangiando, e la prendete la buccia. Ehi, già lo mangiavo così, da vicino. E un ragazzo, non ha più visto. Da vicino, vicino a casa, il latte dolce, dove c'è la piscina adesso. Se ti ricordi, c'era l'orto di signor Giovanni, che è morto. Dove ci sono le piscine adesso. Quello li piantava, e io andavo via e mi li da zia, glieli chiedeva e me li dava. 4-5 mazzi di belli maturi, buona rete erano. L'anno passato mi rende duilio, mira, costavo la vacca di denaro. Già lo so che cosa, però sono ben buone. Cioè, mi piacciono i burgussiggia. Tore, chi sa, ti piacciono a te? Grazie, mi senti, sì. Non te lo ricordi al latte dolce, non ci siamo andati in quell'orto da Sergio Giovanni, dove c'erano le piscine prima, piantava di tutto i chivi. Sì, ma aveva passato lo cemento però. E beh, avevano fatto le piscine i chivi, si passavano un rio i chivi. E signor Giovanni piantava di tutto, sindria, mironi, la zucca, finocchia, cos'è che non piantava? Oh, i pianta li nifurava nel puro. Senta, io squillendo il telefono. A cura gli appurava un bagliente, con i carri o le burro andazzigliali, a tracciare tutti. Una carriolata di finocchio, un capo di finocchio, tore, la tucca, di tutto. E poi infatti, la cosa tutto non ha fatto più, a chi uno si è ritirato da chi si era ammalato anche. E abitava lì, in quel palazzone dei Salesiani, perché teneva conto che i giardinetti dei Salesiani che ci sono lì dentro, dove c'è la piscina, la fontana con i pesciolini rossi, teneva conto anche quegli agrumi dei Salesiani lì. E mo suede, mo c'è la moglie, la figliola si è sturrata a paese, a chi erano i paesi questi. Però abitavano lì, da Salesiani, e coltivava, vendeva. Secondo me era tutto dei Salesiani, burulò su, un iedo piantava. Militari. Ebbene, non hanno compreso, sono ospiti, dormono lì, mangiano e dormono i vivi. Avate, facevate nei buriaeti, il giardino, tutto quel giardino che c'è lì. E già è grandetto, ce n'è mille lì, alberi di frutta. Entravamo noi da Rubiale, a passi, arancio, mandarino, un espolo, e così non si facciamo da piccini. Ma tu bicicolati, tirava, avevano mammetto capretiera, visto, con la doppietta, all'ardo e a piccigoni. E non so fare giù, sono i vivi. Ma neanche di pregi, in più sono pagati dal comune, non hanno compreso, se che pagano i luci, vai a mangiare, va? E le 7:30 passate, quasi meno 25, e io mi adesso, se rientra a Bacchigio mi cacco tutto. E aspetto 5 minuti che rientra a Bacchigio, lo saluto e sacco tutto. Va, via. È curato stasera, stamani si è curato, vabbè sono andato a farmi l'analisi, tra andare e tornare, so che ho passato in macelleria, sono arrivato a casa alle 11 e qualche cosa, e si è curato il burro manzano, oggi è curato la tipa, vabbè dai che sta con tutto. Ciao Tore, a domani, se sei da Bacchigio salutamelo, se no. Ciao Bacchigio, se sei in ascolto, a domani ce la risentiamo. E pianta li pannucchi domani. Ciao, ciao anche chi è in ascolto. Ok, ciao, ciao.